Jesse James. Sei confuso, fai due diamanti di debutto, arie d'aftershave, scene di caccia, caccia di che. Normalmente nostalgie non hai, fretta tutta tu, ma se ti perdi non cercati mai. Oh, lontano che vai, oh, lontano che vai, lontano che vai, oh, lontano che vai, lontano che vai. Quanti venti ha questa luna che abbaia non sa? Lasci niente, solo una foto sulla barra.